in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di CRM Happy Wake Up. Qui con voi Patrizia Curreri. Questa mattina un po' diversa, un po' strana, perché naturalmente finiscono le vacanze. Ieri appunto c'è stata l'Epifania e oggi c'è un risveglio un po' più insopportabile, come si suol dire, perché naturalmente si deve andare a lavorare, si deve incominciare la solita routine. Ma noi qui di CRM Happy Wake Up la routine non ci piace. Ci piace la musica, ci piace divertirci e ci piace stare in compagnia. Oggi è il 7 gennaio 2013, finalmente possiamo dire 2013, e infatti è da 7 giorni che è iniziato l'anno nuovo e spero per tutti che sia iniziato come voi lo avete desiderato. E oggi fa l'onomastico, infatti la chiesa ricorda San Raimondo, quindi auguri a coloro che fanno oggi l'onomastico ma anche il compleanno, e tra questi ricordiamo anche tanti VIP, tante persone, personaggi importanti anche del mondo storico. Abbiamo Ludovico III, il re di Baviera. Poi abbiamo Alessandro Natta, politico, e poi abbiamo Giuliano Ferrara, giornalista e conduttore TV, poi Nicolas Cage, attore della La città degli angeli, oppure abbiamo anche Next e tanti altri film dove è molto famoso e molto appunto seguito, e poi abbiamo Matteo Togliariol, schermidore e spada, oro olimpico 2008. Quindi tanti personaggi importanti questa mattina del 7 gennaio, quindi magari anche per voi, per coloro che fanno, che sono nati in questo giorno, magari il futuro vi riserverà delle ottime occasioni nel mondo lavorativo, anche sportivo, chissà, chissà. Ma abbiamo detto che dobbiamo iniziare questa mattina con uno spirito diverso, e questo ci aiuta Carly Rae Jepsen con Call Me Baby. Ricordiamo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me, e potete inviare un sms al 335 5637 251, telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci anche su internet, dove non solo potete sentirci ma anche vederci con la web, e il sito è www.crmepiradio.it, oppure potete richiedere la vostra musica anche da Facebook. Ebbene sì, siamo anche su Facebook, cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. E questa mattina sarà piena di consigli, perché si sa, dopo le feste ci sono le diete, magari qualche consiglio in più non fa male. E continuiamo con la musica, questo è il Olly Murs, Troublemaker.

Torniamo a CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Curreri. Questa mattina un po' insolita, un po' per le nostre abitudini festive, natalizie, appunto perché si ricomincia con il lavoro, con la scuola, con lo svegliarsi presto e pensare comunque a sistemare casa, naturalmente perché è soggetta alle invasioni dei parenti e delle abbuffate festive, quindi adesso si ritorna un po' alla solita vita. E noi vi teniamo compagnia, facciamo compagnia questa mattina un po' con musica, con la nostra musica veramente abbastanza allegra, divertente, musicale, così potete un po' mettere a ballare ricordando un po' il vostro veglione di Capodanno. Ma qua leggo tra le nostre notizie che appunto circolano nel web, un po' più strane come mio solito raccontarvi, ecco una lista dei 50 indicatori che permettono di appurare che ormai si è adulti. Quindi cosa ci permette di affermare che siamo arrivati quindi all'età adulta? Uno studio inglese su un campione di 2000 persone ha esaminato quali siano considerati i sintomi che ormai si è una persona adulta, quindi ci danno quell'indicatore giusto appunto che ci permette di indicare quando siamo adulti oppure no. E l'indicatore più importante, a quanto emerso, è quello di essere intestatari di un mutuo, ma ce ne sono migliaia e migliaia qua di indicatori, ve ne dico alcuni. Appunto il primo è si è adulti quando si ha un mutuo, e il secondo posto ci sono le proprie decisioni finanziarie non sono più determinate dai genitori, quindi questo è un altro indicatore che ci permette appunto di determinare che siamo arrivati quindi all'età adulta. Poi al terzo posto c'è si ha sottoscritto una pensione integrativa. Poi al quarto si fa la spesa degli alimentari, al quinto si è fatto testamento, al sesto si hanno dei figli, al settimo ogni mese si pianificano le spese, all'ottavo si è in grado di cucinare una cena da zero, poi al nono non indicatore che ci permette di affermare che siamo adulti è quello che si è sposati, al decimo che si ha un'assicurazione sulla vita, e così sì, così via fino al cinquantesimo indicatore. Veramente la lista è molto lunga, non sto qui ad annoiarvi, però ci sono questi sondaggi che permettono di verificare appunto quando uno si può veramente reputare adulto e quando no. Quindi vedete un po', esaminatevi un poco e magari possiamo dire che ancora siamo giovincelli. Continua la nostra musica, la musica di CRM Happy Wake Up con Rudimental, Feel the Love. I can feel it all. Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Yeah.

rimontare tutto, tutto da capo, tutto il lavoro fatto per anche il presepe. Non dimentichiamolo appunto quanto lavoro c'è dietro un presepe fatto decentemente, fatto con tutta l'amore, con tutta la volontà appunto di svolgere appunto questo bellissimo bellissimo capolavoro. Abbiamo visto appunto anche Cefalù piena, strapiena di presepi sparsi per ogni vicolo e in ogni parte appunto del centro storico, che ha dato è stato molto apprezzato, molto considerato appunto tutti questi presepi, al di là di qualche avvenimento un po' negativo che appunto hanno distrutto un piccolo presepe. Vabbè, ma questo lasciamo stare che ci sono ancora persone appunto che non ragionano bene. Ma 7 gennaio vuol dire quindi fine delle feste, quindi inizio della dieta, e appunto la stagione dei cenoni si è conclusa e quindi urge rimettersi in carreggiata e smaltire per quanto è possibile i chiletti che panettoni e brindisi ci hanno inevitabilmente lasciato in eredità, e prima che appunto si sedimentino troppo, quindi è giusto prendere delle giuste raccomandazioni e quindi seguire una specie di dieta. Gli esperti consigliano una dieta di 2-3 giorni minimo. Perché? Perché così, per aiutare l'organismo a depurarsi e sgonfiarsi, e quindi in questi tre giorni devono essere pieni di frutta, minestrone e patate accompagnate da tisana alla malva. E la prima strategia appunto è poco invernale, precisa appunto l'esperto nutrizionista Ciro Vestita dell'Università di Pisa, ma sicuramente sarà la più efficace. Si tratta di scegliere per 2 giorni una dieta a base esclusivamente di frutta, che è altamente diuretica. È consigliato appunto il melone invernale, in particolare oltre ad essere diuretico è un potente disintossicante, ma sono utilissime anche l'ananas, le mele e le banane. La quantità di frutta prescritta è di 1,5 kg al giorno, a cui vanno aggiunti 2 litri d'acqua, ad esempio una mela la mattina, 1-2 banane a pranzo e un'ananas intera la sera, buonissima l'ananas, oppure un'adeguata quantità di melone invernale. Si tratta di una dieta senza sodio che ha anche un potere saziante, ma attenzione, sconsigliata a chi ha problemi appunto di glicemia ed è vietata ai diabetici. Poi anche un altro consiglio, quello di mangiare patate, che appunto aiuta il fisico a depurarsi, anche se pochi lo sanno, appunto spiega il nutrizionista. Bisogna mangiarne bollite con un filo d'olio e prezzemolo, 300 grammi a pranzo e 300 grammi a cena, anche se appunto sono reputate le patate anche farinacee, quindi bisogna appunto stare abbastanza attenti. Per la colazione invece è previsto un frutto accompagnato da un tè o un caffè, e le patate sono anche diuretiche, saziano molto e depurano. E poi la terza tecnica prevede una colazione a base di tè verde, sempre accompagnato da un frutto, mentre a pranzo e cena si mangia un minestrone senza legumi né pasta, pane e riso. Quindi avete una varietà di scelte, e quindi per poter fare la vostra mini dieta, potremmo chiamarla così, e magari quindi ripristinare un po' i chiletti che avevate prima e quindi che avete accumulato durante le feste. Quindi fate un po' e avete questa piccola volontà di affrontare questi 3 giorni un po' di sacrifici rispetto a quello che abbiamo mangiato tutto per tutte le feste, per i cenoni e così via. Questi sono dei piccoli consiglietti. 92 rullini Kodak pieni di fotografie, alcuni non li abbiamo sviluppati mai, perché non siamo mai arrivati a 36 serate al bar, donne, motori, calcio, birra e musica, il rock, il rap e la voglia d'America, il colpo di fortuna che non capita, non capita, capita a noi e i nostri amici tutti a fare. Golf,

ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-92-3292, un po' richiedendo appunto la vostra musica preferita, quella che vi tormenta un po' nella testa. E poi potete richiedere la vostra musica dal sito www.crmhappyradio.it, dove non solo potete sentirci ma anche vederci, o anche su Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. E parlando poco fa appunto della dieta, della mini dieta che consiglia appunto il nostro nutrizionista dell'Università di Pisa, e c'è però chi lancia l'allarme che presto la pasta scomparirà entro il 2050 a causa appunto dei cambiamenti climatici. E lo studio è stato pubblicato su Newsweek, secondo cui questo celebre alimento, a causa dei continui mutamenti climatici, corre seriamente il rischio dell'estinzione. E dopo caffè e cacao, quindi cambiamenti climatici, mettono all'angolo anche grano, mais e riso. Quindi facciamo di tutto per mangiare quanto più pasta possibile, perché poi scomparirà. Take me down to the riverbend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on the silver wave, past the black where the sirens sing. Warm me up in the Nova's glow. Drop me down to the dream below, 'cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Oh love, won't you rain on me tonight? Oh love. Don't stop when the red lights flash. Oh, ride, free ride. Won't you take me close to you? I just can't be satisfied. All losers and cheaters, won't you please hold on my line? Oh, hours and hours, like the you you rain. La nostra mattina di CRM Happy Wake Up con i Green Day. Questo era appunto la loro ultimo successo, All Love. Ma continua la nostra mattina di consigli riguardo appunto al perdere peso, a fare diete e così via dopo queste abbuffate natalizie, che fa venire un po' fame. Appunto vado leggendo appunto questi consigli, queste notizie, questi ultimi studi affrontati dall'Università di Pisa, ma questo ci proviene dall'Arizona State University, dove ci danno appunto delle indicazioni, dei consigli per chi vuole perdere peso e magari quei 3 giorni non bastano, quelle che vi dicevo poc'anzi. E infatti qua consigliano di iniziare a pensare ai toast come un pasto anziché uno snack. E quindi lo studio dell'Arizona State University ha verificato che chi ha una definizione più ampia di snack tende ad ingerire maggiori calorie rispetto a chi invece considera un maggior numero di cibi rientrare nella categoria pasti. È un discorso alquanto particolare, ma a quanto pare funziona. Lo studio ha coinvolto un ampio numero di soggetti che sono stati intervistati in merito alle calorie assunte e a cui è stato sottoposto un questionario che chiedeva di definire un'ampia serie di cibi come snack o pasto. Il risultato, se nel caso che è venuto fuori, che se nel caso delle patatine c'è univocità di vedute e sono considerate uno snack, mentre una zuppa e una pizza sono allo stesso modo unanimemente considerate un pasto, per alcuni cibi c'è una visione molto più combattuta. Ad esempio i toast e i nachos sono risultati essere considerati da metà dei rispondenti come uno snack, mentre dall'altra metà come un pasto, e questi ultimi assolutamente

No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tale. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can go brighter than the sun. Con i fan e Jamel Monáe. E siamo sempre a CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Curreri, a tenervi compagnia in questa mattina particolare anche per molti che magari si sono svegliati con qualche soldino in più. Infatti ieri, giornata dell'Epifania, appunto giornata della Lotteria Italia 2013. Infatti sono estratti, ieri sera sono stati estratti i numeri dell'Epifania e i biglietti vincenti, e il primo premio, ricordiamo, di 5 milioni di euro è andato a Modena. Appunto il biglietto è stato venduto a Modena, poi abbiamo quelli di 2 milioni a Numana, a Vallata quelli di 1 milione di euro, e quarto premio che vince 800.000 euro a Castrocelo, poi il quinto premio a San Donà di Piave che vince 500.000 euro, e infine il sesto premio a Roma tra quelli più ricchi che va ai 250.000 euro. Poi ci sono appunto i premi biglietti vincenti, quelli di seconda categoria da 50.000 euro in giù, e che abbiamo toccato anche un po' la Sicilia. Abbiamo appunto un biglietto a Marsala vincente, poi a Palermo, proprio Palermo, quindi non in provincia, non è arrivato qua a Cefalù, ma chissà se il prossimo anno magari saremo più fortunati. Noi cerchiamo sempre, tentiamo sempre la fortuna che magari un giorno busserà alla nostra porta, chissà. E continuiamo ad ascoltarci Pink, questa è Try. Sometimes I think that it's better to never ask why. Yeah. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Wake up, sempre con me, con Patrizia Curreri, ricordando i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-92-3292, oppure potete sentirci e vederci su internet al sito www.crmhappyradio.it o ancora su Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. E continuano appunto le nostre notizie più strampalate, più strane dal mondo del web, e questo appunto è della serie mai meravigliarsi e mai stupirsi del lavoro delle vostre mogli, delle vostre partner, appunto perché gli uomini, appunto in vista di quella della notizia che adesso vi dirò, non possono fare più cose contemporaneamente, mentre noi donne ormai siamo abbastanza abituate, soprattutto le mogli. Quelle anche in carriera, famiglia, figli, possono fare più cose contemporaneamente. Ci ha provato un 32enne che ha avuto una pessima esperienza mentre cercava di dimostrare alla moglie che era in grado di svolgere i compiti domestici, e dice appunto lo stesso: mi sono messa a stirare mentre lei era fuori, volevo darle una dimostrazione. E infatti il tipo ha iniziato a stirare e intanto ha acceso la TV e si è messo a guardare un match di box, e poi stava andando tutto bene, ma il problema è che a un certo punto l'incontro lo ha coinvolto così tanto che non stava più attento a cosa stava facendo. E così, quando ha sfilato il telefono, ha tirato su il ferro da stiro anziché la cornetta. Beh, il risultato è abbastanza ustionato. Poi, non contento, per cercare di togliere un po' l'ustione dal viso, è andato in bagno ed è caduto e si è fatto pure un occhio nero. Quindi più tragico di così non poteva andare. Quindi la dimostrazione che è decisamente più difficile di quel che sembra rispetto molto quello che fa mia moglie adesso. Quindi adesso rispetta ciò che fa la moglie e anche i suoi ritmi lavorativi, domestici. Quindi ha apprezzato decisamente, notevolmente, quello, lo sforzo che fa la moglie a casa. E quindi lo dovete apprezzare un po' tutti, perché appunto si pensa che magari la donna a casa non faccia niente, o meglio, sia molto facile fare lavori domestici, pensare alla casa, pensare alla famiglia, pensare i figli, ma non è così. Quindi questo appunto alimentano le capacità della donna, che può fare più cose contemporaneamente. Quindi pensate, uomini in ascolto di CRM Happy Wake Up, che avete qualcuno di speciale accanto, non solo psicologicamente ma anche materialmente, quindi un vero genio della casa. E questa è Laura Posini, Le cose che non mi aspetto. Sono stata nel centro di una tempesta, volume distorto che picchia in testa, con i pensieri in fumo, fuoco di un incendio tutto mio. E ti trovo per caso che parli al mare, anche tu avevi un sogno da riparare. Tu non mi dire niente, mi fermo a farti compagnia. Posso soltanto guardare il punto dove stai guardando tu, e posso solo pensare che ho già vinto, se convinco te che sei speciale. Come le cose che non mi aspetto, come quel grazie che arriva dritto, quello che sei. Posso soltanto tornare dove ancora stai aspettando tu, e quel che ho avuto restituire e lasciarlo a te, che sei speciale. Come le cose che non mi aspetto, come quel grazie che arriva dritto, buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. It's a new day. One is getting ready, everybody ready.

So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels. E questa era Amy MacDonald, This Is The Life, CRM Happy Wake Up, oggi 7 gennaio 2013. E come abbiamo detto, appunto, oggi è una mattinata un po' particolare, appunto perché si riprende la solita vita dalle vacanze natalizie, e quindi si riprende un po' con fatica, ma noi siamo qui in compagnia, in vostra compagnia ancora per circa mezz'oretta, appunto per allietarvi un po' con la nostra bellissima musica e il nostro bellissimo ritmo, il ritmo di CRM Happy Wake Up, e con qualche notizia un po' curiosa, un po' strampalata, come dico io. E questa è proprio diretta al mondo femminile, e appunto perché si sa, le scarpe sono oggetto quindi femminile, oggetto della femminilità, e perché no? E trovando le scarpe si può trovare anche l'amore. Appunto non si tratta appunto della favola di Cenerentola e del Principe Azzurro, ma questa oggi diventa realtà grazie a una curiosa iniziativa che ha unito una catena di negozi di scarpe e un'agenzia di appuntamenti. E iniziativa il cui slogan è: compra un paio di scarpe e avrai un uomo gratis. E beh, un'iniziativa abbastanza particolare e divertente. Il meccanismo è relativamente semplice: gli uomini scelgono un certo numero di un paio di scarpe, massimo 20, presenti nel negozio, e sulle scatole delle scarpe scelte viene posto l'adesivo appuntamento incluso. Quindi una donna acquista quel paio di scarpe e quindi potrà accettare l'appuntamento con qualcuno, se non altro ha gli stessi suoi gusti. Quindi davvero interessante, quindi già comunque si conosce la persona con cui si potrebbe uscire. E non solo, se accetta l'appuntamento può beneficiare di uno sconto qualora l'uomo abbia accettato di farsi carico di una parte del prezzo o di tutto al momento della scelta delle scarpe. Veramente grandioso, una scelta, un'iniziativa molto particolare, ma che farà sicuramente molto successo soprattutto nel campo femminile e meno in quello maschile naturalmente. Ma noi continuiamo con la nostra musica, questa è rivolta alle nostre ragazzine in ascolto, questi sono i One Direction. Hey girl, I'm waiting on ya, I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool and we know it too. Let's go crazy. buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Questi erano i Modà con gli Arabe de Palo, come un pittore. Un po' questa musica mi ricorda tanto i bambini che imparano a disegnare e a colorare, un po' fantastica, no? Su come colorare e disegnare appunto i loro disegni. E beh, di bambini si parla soprattutto quando c'è la scelta del loro nome, e infatti è un dilemma abbastanza diffuso ora un po' in tutto il mondo, perché il governo si mette in mezzo appunto nella decisione anche del nome. Infatti c'è un caso abbastanza importante in Islanda, dove una ragazza praticamente non ha nome e ha sporto causa contro lo Stato dell'Islanda per ottenere il diritto legale di chiamarsi Leggera Brezza, che in islandese si dice Blair. E la ragazza è stata battezzata con questo nome, ma il suo paese non permette che ai bambini vengano dati nomi diversi da quelli che appaiono nella lista approvata proprio dal governo stesso. È una regola comune anche a altri paesi, tra cui Germania e Danimarca, che nasce per preservare i bambini dall'imbarazzo di eventuali prese in giro. E infatti abbiamo in Italia, soprattutto c'è la legge di che le coppie di genitori non possono chiamare i propri pargoli venerdì, e mentre in Cina, in Giappone, non possono chiamarsi et, come la chiocciola, quella che mettiamo appunto nei nostri indirizzi email. E poi abbiamo questa in Cina, mentre in Giappone non possono chiamarsi devil. E poi abbiamo in Portogallo non possono chiamarsi Tom, e in Svezia né Superman e né Elvis. Quindi sono un po' dei nomi particolari che magari in ogni stato hanno un loro significato, e quindi vogliono evitare appunto che i bambini si imbarazzino davanti alla scelta di questo nome. Queste leggi possono essere secondate o meno. Io penso che comunque ci sia sempre una libertà di scelta e di espressione. Certo, non andare a finire a nomi veramente imbarazzanti, ma questi non mi sembrano così tanto di imbarazzo. Poi chissà, la scelta appunto dobbiamo rispettare le leggi, e quindi la scelta sarà del nostro governo. E questa Adele è Rumor Has It. She ain't real. She ain't gon' be able to love you like I will. She is a stranger. You and I have history, or don't you remember? Sure, she's got it all. But baby, is that really what you want? Blessed up, so you got your head in the clouds. You made a fool out of you, and boy, she's bringing you down. She ain't got your love anymore. I'm leaving you for. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Thank you. vieni a prendermi nell'hotel che costeggia il sole. E io confino ad Orco Blu, l'ovest è una parte mia, ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi vengo a nascere nella tua testa libera. Io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Al tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera, e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente. E fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più. Scegli me tra i tanti, scegli me. Insieme finire questa canzone di Biagio Antonacci, e finiamo anche noi il programma CRM Happy Wake Up questa mattina del 7 gennaio 2013. Infatti siamo arrivati alle battute finali, e però vi devo dare alcuni appuntamenti. E praticamente stasera, oggi pomeriggio, dalle 17 alle 18 ci sarà CRM Happy Talent, sempre appunto i giovani ragazzi che canteranno qui dal vivo e devono partecipare appunto alle audizioni per poter appunto partecipare al Festival Canoro Giovani Emergenti. E quindi state in ascolto appunto CRM su CRM Happy Radio dalle 17 alle 18, e ci sono appunto delle bellissime voci da ascoltare. E noi invece l'appuntamento è mercoledì dalle 10 alle 12, sempre con me, con Patrizia Curreri a CRM Happy Wake Up. Quindi siate numerosi e che sentiremo delle belle notizie, delle strane notizie, ma della bella musica divertente e ballabile. Ecco, balliamo insieme quasi tutte le mattine. È un augurio per questo anno che sta iniziando, per questo anno che si appresta ad avviarsi quanto più pieno di novità e di notizie, di